Allora, questa sera andiamo a vedere, continuiamo con il nostro corso di tartufi e vini. Cucito avanzato. Scusi? Sì. Ah, sì. Ma Raffaele, ogni tanto mi dai del tuo, ogni tanto del lei. Dai, che Raffaele è un signore, perché noi ci diamo del tu, però davanti a tutti mi dà del lei. Allora, soltanto un breve excursus per la lezione del 9 di dicembre. Fra due settimane la lezione di venerdì cade in concomitanza con il ponte dell'Otto. Il 8 che è festa è un giovedì e il 9 sarebbe un venerdì. Allora, come ho detto nella lezione prima, io venerdì ci sono tranquillamente, nel senso che non vado a gozzovigliare da nessuna parte, per cui dal canto mio la lezione c'è regolarmente. Dal canto vostro fateci una pensata questa settimana, se avete impegni particolari me lo fate sapere e saltiamo la lezione fra due venerdì. Ripeto, dal mio punto di vista io la faccio regolarmente, quindi va bene. Allora, detto questo, iniziamo con la lezione. Allora, stasera prendiamo subito il problema del numero telefonico. Allora, il numero telefonico . Dunque, se io creo una tabella con numero telefonico, allora, per quanto riguarda il numero telefonico espresso in numeri, abbiamo visto la volta scorsa che invece di intero lungo dà un problema. Peraltro l'intero lungo è il valore che viene messo di default. Ah, il problema è che se io metto 333 347 345 5, ok, il valore immesso non è valido perché sostanzialmente è troppo lungo. Allora, in questo caso qua, al posto dell'intero lungo, abbiamo detto la lezione scorsa, bisogna andare ad aumentare un po' questa dimensione. E uno cosa fa? Va a prendere le voci successive. In realtà la precisione singola dovrebbe già bastare, io non so se qualcuno a casa l'ha provato, come posizioni decimali ovviamente si va a mettere 0 posizioni decimali perché il numero telefonico non ha posizioni decimali, dovrebbe già bastare in realtà questo, per cui 3, 4, 7, 7, 2, 3, 2, 6, ok. Ha messo posizioni decimali? Ora, se lui fa questa porcheria qua, questa visualizzazione con 3 alla 9, se avete un minimo di confidenza con Excel, vuol dire che quello che è da cambiare è il formato. Quindi il formato, lui adesso sta usando questo formato, cioè la notazione scientifica, bisogna mettere questo formato, numero generico. E in questo modo Lo fa lo stesso. Forse anche bisogna selezionare non è... No. Ok, si utilizza uno dei formati, adesso uno deve fare un attimino una prova, comunque con il formato standard sostanzialmente mi va a leggere, o standard o fisso o generico, adesso uno fa un attimino, comunque delle prove, eccolo qua, è un problema sostanzialmente di formato. Sì, fisso, però ripeto signori, provate a casa, nel senso che la soluzione del fatto che è troppo corto la bypasso mettendo al posto dell'intero lungo un precisione singola se non doppia. Il fatto che metta il 3, bla bla bla elevato alla 9 lo risolvo andando a cambiare il formato. Poi che sia fisso, che sia standard o numero generico lo provate a casa. E vedete, il fisso comunque dovrebbe essere quello corretto. Ovvio che se voi mettete numerico, il problema qual è? Esatto. Il problema è che se io metto 0,11, 1, 2, 3, 4, lui che fa? Lo 0 me lo fa sparire. Ma questo è ovvio, perché lo 0 in un numero non ha significato. E allora, al posto del numero, davanti, allora al posto del numero, gioco forza, devo usare il testo. Il testo mi permette, sì, 0, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mi permette di tenere lo 0 davanti. A questo punto però l'obiezione che giustamente che potrebbe venire in mente è bravo tu, ma se me lo metti come testo non mi vai più a controllare che effettivamente l'utente stia inserendo delle cifre. Lì dentro l'utente potrebbe anche andare a scrivere ciao, e il computer me lo prende lo stesso. Mi seguite? Sì. D'accordo Raffaele? Allora la soluzione anche qua qual è? La soluzione è quella di dirgli innanzitutto che questo testo non deve essere più lungo di tot cifre, tot lettere. Se io prendo i numeri di Milano che sono quelli più lunghi, hanno il prefisso 02 e poi, se non ricordo male, o 9 o 10 cifre. 9. Quindi in totale gli vado a mettere una dimensione pari a 11. Perché 2 di prefisso più 9 di numero sono 11. Quindi già così limito l'utente. Ma l'altra cosa che io, sulla quale io sono passato un po' velocemente e che poi tempo permettendo entro questa settimana cerco di mandarvi, vado ad impostare, quindi qua metto 11 dimensioni del campo, vado ad impostare una maschera di input. Nella maschera di input gli posso dire, se vi ricordate la lezione scorsa vi dicevo, gli posso dire in quale posizioni mettere cifre o lettere. E avevo fatto l'esempio del codice fiscale, ZCC, VTR, 75, eccetera, eccetera. Ora, la maschera di input, ripeto, questa settimana cerco di mandarvi questo specchietto, tramite dei numeri o delle lettere mi dice mettimi una lettera qua, mettimi un numero lì, mettimi una lettera qua. Ma gli posso anche dire mettimi un numero o una lettera opzionali. Quindi o forzo l'utente a mettermi qualcosa, oppure gli dico, guarda che in questa posizione potrebbe esserci un numero, ma non è detto che ci sia. Se volete iniziare a dare un'occhiata, potete andare sull'help e cercare maschera di input. Ecco, vedete, creare una maschera di input per immettere valori nel campo. Ok. Allora, qua vi dà tutta una serie di informazioni e a un certo punto, eccole qua, vi dà questi caratteri qui. Questi caratteri sono i caratteri da utilizzare per le lettere o i numeri. Vedete che vi dice, se mettete 0 nella maschera di input, vi chiede una cifra. In questa posizione è necessario immettere una singola cifra. Se mettete 9, l'immissione delle cifre singole in questa posizione è facoltativa. Allora, signori, facciamo un caso pratico, così si capisce meglio. Facciamo il codice fiscale. Code fiscale. Mettiamo un testo. Ora il codice fiscale, vabbè, mettiamo soltanto le prime 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mettiamo soltanto le prime 11 posizioni, d'accordo? Sono 6 lettere, 2 numeri, una lettera, 2 numeri, ok? Nella maschera di input gli devo dire, ok, io qua voglio 6 lettere. Vado a vedermi qua le lettere. L'immissione della singola lettera è facoltativa, quindi non va bene il punto interrogativo, perché voglio obbligare l'utente a mettermi la lettera. Ma devo usare una cifra, cifra, cifra, lettera. Era là. No, questa è sempre facoltativa. Era la L, sì, ma non la vedo più. Era la L, sì. Solo che è scomparsa. Proviamo a mettere la L. E qua purtroppo cambiano di versione in versione. Sta cosa mi fa imbestialire. Fino alla versione precedente era infatti la L. Ok, e qua allora ripeto, poi questo qua è giusto per darvi un'idea, poi lo specchiettino che vi mando vi racconta meglio le cose. Allora, la maschera di input nel caso di un codice fiscale dovrà essere LLL, quindi mi dice le prime 6 devono essere lettere. Poi due numeri, 00, L, quanto siamo? 6, 7, 8, 9, 10, 11. D'accordo? Chiaramente poi va di seguito. Poi negli appunti si chiede puntini, puntini. 0. Sì, perché se metto il 9, il numero lo può mettere, ma è facoltativo. Invece nel codice fiscale il numero ci vuole. Allora, il mio codice fiscale sarà ZCCVTR75D05. Ok? Se vado avanti, il computer non mi dice nulla. Se invece io mi sbagliassi e al posto dello 0 qua mi andassi a mettere una O, vedete che lui non me la fa mettere. Non lo riesce a mettere. Quindi mi forza l'immissione di un numero in quella posizione. Per cui il numero telefonico sostanzialmente come me la gioco? Me la gioco dicendogli. Allora, per i cellulari va benissimo, numerico, precisione singola, con il formato bla bla. Per il numero telefonico di casa, testo, ma nella 11 e nella maschera di input gli metterò tutti 9. Cioè, lo obbligo a inserire delle cifre, ma quindi puoi inserire solo cifre, ma facoltativamente. Perché giustamente, se io invece abito in provincia di Asti, non ci arrivo mai più a 9 cifre. Perché in provincia di Asti ci sono 0141 930 a Dusino San Michele, che è in provincia di Asti, un numero telefonico è fatto così. Però c'è sempre un minimo di cifre. C'è sempre un minimo di cifre. Sì, ma mettendogli il 9. Sì, può mettere un tot obbligatorio, d'accordo. Ok. D'accordo, signori? E questo è il foglio? Mi arrabbio il primo corso, il secondo no, dai. Oh, sarà andata benissimo. E però se hai notato mancavano due personaggi in prima fila. No, no, no, stasera è andata veramente bene. Sono stato contento perché la gente rispondeva bene, attenta, ha comunque, bene o male, visto, cioè ho avuto la percezione che avessero comunque visto le cose fatte le settimane scorse. Sono molto contento, in confronto a due settimane fa, però... Ok. Che poi, cinicamente, si chiama selezione naturale, quindi va bene. E col contatore non puoi. Non posso. Devi mettere un numerico. Okay. Però non te lo autoincrementa. Io invece voglio che me lo autoincrementa. Ah, non posso. Non puoi. Il contatore per definizione va da un numero da 1 in avanti. Se però tu cancelli qualcosa di precedente, lui quel numero lì non lo riassegna più. Il che, se ci pensi, ha anche un significato. Perché? Perché se a quel contatore c'è qualcosa nelle altre tabelle di collegato, se tu poi cancelli il numero 2 nella tabella madre, al quale è associato il numero 2 nella tabella figlia, e il numero 2 lo riassegna ad un altro prodotto, le voci della tabella figlia vengono legate al nuovo prodotto. Ok, allora, la chiave primaria lascia il contatore. Un altro campo, se invece vuoi farlo incrementare, ma da, in automatico da una certa cifra... Non se ne esce fuori. Non se ne esce fuori. L'incremento lo fai col contatore, punto. Il contatore va dall'ultimo elemento in avanti. Cioè, quello che mi chiedi non è fattibile con Access. Perché l'unico modo per fare un incremento è usare un contatore. Il contatore va dall'ultimo elemento che tu avevi inserito in avanti. Anche se tu cancelli tutto quello che c'era dietro, lui non riparte da uno. Tanti 9, perché lo 0 indica l'emissione di una cifra obbligatoria, i 9 l'emissione di una cifra facoltativa. Io avevo detto mettere i zeri, i primi 8 zeri, perché il minimo sono 8 le cifre di un numero telefonico, e poi a seguire. E però vedi già, nella provincia di Asti ce ne sono di meno, sono 8. Vabbè. Comunque insomma, un tot di zeri e un tot di 9. Per l'indirizzo email? Beh, per l'indirizzo email in realtà... bella domanda. Allora, per l'indirizzo email in realtà... Io posso mettere anche delle cifre, non solo delle lettere. pare che sia, no, minimo mi pare sia 3. Può essere un 5, però non ce ne sono massimi. No, in realtà l'unica cosa che si può fare. Allora, c'era un carattere che mi indicava lettere, numeri o punteggiatura, che qua non vedo e sinceramente non ricordo. Lei è commerciale, qualsiasi carattere o spazio, però obbligatorio. Eh no, obbligatorio non lo puoi mettere obbligatorio. E per forza, perché un indirizzo email può essere lungo due lettere anziché 20. Allora, il tutto sta a trovare un qualcosa, adesso ripeto, me li vado a vedere su internet e lo rifaccio quello specchietto, ma l'avevo già fatto l'anno scorso, infatti lo vado a riprendere. Comunque, supponiamo che il carattere sia un punto interrogativo, quindi devo mettere un tot di punti interrogativi, ne metto magari tanti, 10, 15, 20, ok? Poi metterò, però questi devono indicare un qualcosa di facoltativo. Perché, ripeto, un indirizzo email può essere o 3 lettere o 30 lettere. Quindi un punto interrogativo, o meglio, x punti interrogativi, una chiocciola, altri punti interrogativi, un punto e 3 punti interrogativi. Tre, perché sono facoltativi. Perché può essere una due lettere, it, o tre lettere, com, org. Punto. Tre punti interrogativi. Quindi, ripeto, il carattere non mi ricordo quale sia da usare, mi sembra il punto interrogativo. Comunque, deve essere un carattere che mi identifichi la possibilità di inserire lettere o cifre o punteggiatura, perché ci sono anche i punti, gli underscore, queste balle qua, ma facoltativamente. Quindi andrò a mettere x punti interrogativi, una chiocciola, x punti interrogativi, un punto e tre punti interrogativi. D'accordo? Poi lì bisogna fare un po' di prove, bisogna... però comunque la possibilità c'è. D'accordo? Ora signori, riguardiamo un po' velocemente il discorso della relazione fra le tabelle e poi le andiamo a vedere su Access. Dunque, la lezione scorsa abbiamo visto che le relazioni fra tabelle possono essere sostanzialmente di tre tipi. Una a molti, una ad una, molti a molti. Questi sono i tre tipi di relazioni che ci sono fra le tabelle. Nella una a molti, la chiave primaria della madre si collega al campo ponte della figlia. Nella 1 a 1 la chiave primaria della madre si collega con la chiave primaria della sorella, perché in realtà in questo caso non sono madre e figlia, ma sono sorelle. Nella relazione molti a molti, avrò due tabelle con le rispettive chiavi che si collegano ai campi ponte di una figlia comune. Tutti d'accordo su questo? Non chiavi, attenzione, ma campi ponte. Perché la terza tabella avrà una chiave primaria per i fatti suoi e questa diventa campo ponte. Ma molto, Questa era molti a molti, l'avevamo visto proprio anche due lezioni fa. Poi come si fa lo vediamo. Adesso mi interessa che a voi sia chiaro il concetto. Ci sono tre chiavi in pratica, cioè c'è una chiave primaria e due secondarie. Allora, bisogna sempre, contestualizzare. Allora, abbiamo detto, partiamo dal concetto principale, ogni tabella deve avere una chiave primaria. Quindi ciascuna tabella avrà una chiave primaria. La tabella di in mezzo, praticamente, che è la figlia delle due, oltre alla sua chiave primaria, deve avere due campi ponte che sono la duplicazione della chiave primaria dell'una e della chiave primaria dell'altra. Esatto. D'accordo, signori? Quindi tutte e tre le tabelle avranno una chiave primaria per i fatti loro. La tabella centrale avrà, oltre alla sua chiave primaria ed eventuali altri campi, avrà i due campi ponte delle due madri. Ora, proviamo a fare un esempio relativamente semplice, che potrebbe essere una piccola contabilità casalinga, con delle spese. Supponiamo di voler andare ad inserire la bolletta del telefono, la bolletta del gas, la bolletta della luce, mano a mano che queste arrivano. Allora, come mi posso gestire questa situazione qua? Ora, la prima cosa da fare, signori, è quella di andarsi a prendere un pezzo di carta, e fatelo, e andarsi a buttare giù i campi che sono necessari. Quali sono i campi necessari? Prima di tutto, io prima di tutto quanto spendo. Io personalmente, lo so che il contabile dice, allora, prima il fornitore, giusto, è corretto. Io personalmente, da povero mortale, dico, allora, quanto vado a spendere sta diavolo di bolletta? Io ci metterei l'importo come primo. Ovviamente, in prima battuta, signori, sul foglio di carta, metteteli a getto, cioè non state a guardare in che ordine, La prima cosa è buttarli lì a getto, cioè man mano che vi vengono in mente, li metto insieme. Poi, il fornitore, ecco, ma del fornitore cosa? Quindi nome del fornitore, che carino, nome del fornitore, quindi il tipo di fornitura, quindi se è acqua, se è luce, quindi tipo fornitura. Il periodo, quindi se è gli ultimi tre mesi, il periodo. Ma cos'è il periodo? Potete essere in data o scadenza? No, la competenza. Quindi da quando a quando. E poi ci sarà anche la data. Data fattura o data bolletta, insomma, quello che è. Quindi quando arriva, quando è stata emessa, e il periodo di competenza. Tutto quando si deve pagare, poi se uno deve... Eventualmente anche quello, certo. Data scadenza. Data scadenza. E questo, tra l'altro, potrebbe essere un bel esercizio per farvi una piccola vostra contabilità casalinga. Perché poi sulla data scadenza, con le query, si può andare a vedere tutte quelle che sono in scadenza, eccetera, eccetera. Poi... Poi? Pagamento. L'importo. L'importo. L'importo. L'importo. Il pagamento di una fattura, no? No, stiamo parlando di bollette, no? Bollette, l'importo è quello. Pagato o non pagato? Di un privato. Di un privato. Sì. E poi c'è quello senza IVA e con te, ma quello è un discorso contabile. Il privato, l'importo è quello. Sì, ok, però diciamo che a me quello che per esempio potrebbe interessare è se l'ho pagata sì o no. Sì, certo, pagato o no. Attenzione, perché come vi dicevo un paio di settimane fa o tre settimane fa, mettete sempre il più dettaglio, che è in italiano da fare schifo, ma quello che voglio dire è non mettete un pagato sì, pagato no, che è molto semplice perché uno fa un flag o no. Mettete data di pagamento. Forse sarebbe anche opportuno il ricevimento, come? Eventualmente si può mettere come. Potrei avere delle bollette depositate in banca, come potrei avere dei UIC postali. Ok, allora, modalità di pagamento. E allora, questi sono i campi. Ora, lasciamo un attimo in stand-by questo discorso, perché prima di affrontarlo in maniera completa vi voglio introdurre un altro concetto. Quando si parla di relazioni fra tabelle, soprattutto nella 1 a molti, che abbiamo visto essere praticamente quella che viene fatta pressoché sempre, perché la 1 a 1 si fa raramente, e la molti a molti in realtà è una figlia della 1 a molti. Allora, quando si parla di 1 a molti, uno dei concetti fondamentali è la integrità referenziale. E questo è un concetto che mi serve tantissimo per rendere il più completo possibile l'esempio. Allora, cerchiamo di capirla bene l'integrità referenziale. L'integrità referenziale serve per non avere record orfani. Cosa vuol dire record orfani? Record orfani. Record orfani, dato che stiamo parlando di madre e di figlie, vuol dire record nella figlia che non abbiano un corrispettivo nella madre. Ora, quando io faccio una relazione 1 a molti, l'integrità referenziale posso decidere di attivarla o meno. È piuttosto intuitivo immaginare che 9,99 volte su 10 si attiva. Cioè ci deve essere proprio il caso, come dire, deve essere proprio il caso del millennio, il fatto di non andare ad attivare. Però il concetto di integrità referenziale è molto importante, adesso poi lo vedremo perché. Quindi cosa vuol dire avere un record orfano? Ripeto, vuol dire che non ha un corrispettivo nella madre. L'integrità referenziale evita questa situazione. Una volta che io attivo l'integrità referenziale, non posso avere record orfani. D'accordo? Solo con la chiave secondaria, cioè nel momento in cui io ho una relazione una a molti, quindi chiave primaria, chiave secondaria, vuol dire che non posso avere un record con una chiave secondaria dove non c'è il corrispettivo nella chiave primaria. Questo è banalmente perché? Perché immaginate che per esempio, che ne so, cliente fatture. Cliente, codice del cliente, madre delle fatture che io ho fatto al cliente. Non posso avere una fattura con un codice di un cliente che non esiste nella, nella tabella clienti. Perché sennò quando vado ad acchiapparmi quella fattura, dico è questa? A chi l'avevo fatta? È chiaro il concetto? Il concetto di integrità referenziale è basilare. Ora, dato questo concetto, affrontiamo il problemino. Allora, una volta che uno su un foglio di carta ha inserito tutte queste informazioni, se le va, abbiamo detto, a dividere concettualmente. Siete d'accordo? Allora, facciamoci una tabella che poi vedremo come chiamare. E un'altra tabella che poi vediamo come chiamare. Eventualmente poi ne andremo a inserire una terza, adesso vediamo. Allora, prima di tutto i concetti di quel che sono espressi lì, in quali gruppi e sottogruppi li posso andare ad inserire? Concettualmente, no? Allora, parliamo di concetti. Quindi ci sarà il concetto fornitore. Quindi sicuramente ci sarà una tabella che io andrò a chiamare fornitore, con i dati del fornitore. E poi? Io sto parlando della contabilità casalinga, per cui ci sono solo io. Poi è una complicazione quella di andarli a mettere i nomi, cioè se io sono per esempio un amministratore di condominio dovrei andare a inserire anche le nome. Ah, quindi tu dici ogni persona che paga il pezzo di bolletta. Vabbè, poi quello è una complicazione che possiamo andare ad inserire, eh? È una complicazione che possiamo andare a inserire. Ah, signori, senza dubbio questa qua è la parte più complicata. Cioè, la parte più complicata, io continuo a sostenerlo, non è imparare Access, ma capire cosa ci sta dietro. Una tabella fatture, o meglio, dato che qua si sta parlando di bollette, una tabella bollette. Ora, signori, i pagamenti fanno parte del concetto bolletta. Quindi, i pagamenti io li inserirò dentro la tabella bollette. Non faccio una tabella a parte pagamenti. Che senso ha? È una caratteristica della bolletta. Se non mi arrivasse la bolletta io non dovrei pagarla. Quindi concettualmente la bolletta, il pagamento fa parte del concetto bolletta. Allora, fornitore. Inizio a mettere il nome del fornitore. O se preferite la ragione sociale. Poi, il tipo di fornitura. Dopodiché arrivano i dati sostanzialmente della bolletta, che sono più o meno tutti gli altri. Quindi, data bolletta, data scadenza, data pagamento, modalità ed importo che questa volta giustamente mettiamo alla fine perché ci sta alla fine. Periodo. Allora, questa è una domanda molto intelligente, ma in realtà avevamo risposto già tempo addietro, però giustamente mi rendo conto che nelle serie di informazioni che vi avevo dato può essere un po' scomparsa. E che era la sua domanda? La sua domanda giustamente dice: ma se tu mi vai a mettere il read e le varie bollette me le paghi con read, avrai read, per cui caschi nel concetto di ridondanza. Mi seguite? Come si risponde a questa domanda? Il concetto di ridondanza è legato a più di un campo. Il fatto di andare a ripetere tante volte un campo non è un concetto di ridondanza, è un concetto naturale. La ridondanza sta quando io ripeto più campi sempre uguali. Cioè il fatto che io abbia Marco, e Marco non è ridondanza. Il problema è che io ho Rossi Marco. Questa è ridondanza. Però come si fa a capire se c'è una ridondanza o meno? Cioè, non c'è un numero di campo minimo? Due. Due. Quindi fino a uno lo puoi ripetere anche 2000 volte nella stessa tabella. Se già due campi, anche una volta sola, vengono ripetuti, ridondanza. E questo è un concetto molto importante, eh? Mi fa piacere che la domanda sia venuta fuori. Scusi, quindi perché mette uno solo, il secondo campo c'è di troppo? Il secondo campo che viene ripetuto insieme al primo è troppo. Quello mi fa automaticamente sorgere l'esigenza di andare a fare una tabella a fianco. Sì, che si ripetono almeno una volta. Quindi se io ho Rossi Marco e Rossi Marco anche solo una volta che si ripete, o che si potrebbe ripetere, giustamente uno dice, ah ma tanto i miei amici si chiamano tutti con nomi diversi. Ma metti anche che uno solo di quegli amici si chiama con lo stesso nome dell'altro, Rossi Mario, quella è ridondanza. Quindi in teoria dovrebbe essere splittata. D'accordo? Com'è il campo che si ripete? Allora, due campi che si ripetono un minimo di due campi che si ripetono almeno una volta. Oh, signori, sostanzialmente in una colonna voi potete avere tutte le ripetizioni che volete. Il problema sta nel fatto quando due colonne hanno almeno una ripetizione, perché quella è ridondanza. E il motivo per cui all'inizio vi ho sobbarcati di concetti era proprio perché adesso questi concetti vengono fuori poco per volta, però almeno uno quantomeno li sa. Ecco. Allora, quindi seguite anche il processo che io sto facendo. Quindi il primo processo è questo, cioè il primo processo è vado a buttare su un foglio di carta le voci in ordine sparso. Il secondo processo è quello di andare a dividere le voci concettualmente. Il terzo processo è quello di andare a identificare le chiavi primarie di ogni tabella. Quindi terzo, le chiavi primarie. Ora, per il fornitore, cosa metto come chiave primaria? Partita IVA. Posso mettere partita IVA, o anche, dato che si parla, ripeto, è importantissimo sempre la contestualizzazione. Dato che in questo caso si parla di fatture casalinghe, bollette casalinghe, posso ragionevolmente accettare la ragione sociale. Questa cosa sarebbe assolutamente da evitare nel caso di un'azienda. In una contabilità casalinga si può ragionevolmente accettare. Chiaro che se io voglio essere sicuro, metto la partita IVA, tanto la devo inserire solo una volta, voglio dire, no? Quindi, per fare le cose per benino, perché poi non vi venga la tentazione di farlo anche in altri casi, mettiamoci la partita IVA. Sì, ci sta. Però, diciamo così, concettualmente, è giusto, è quello che dice. Diciamo che concettualmente mi torna utile che voi iniziate già a pensare come concetto. Per le bollette? Assolutamente no, perché può succedere, raro, ma può succedere che arrivino quella del luce e quella del gas che abbiano la stessa scadenza. Allora, numero fattura. Ma può capitare. Attenzione signori, seguitemi sempre in questi ragionamenti perché, ripeto, sono queste le cose importanti nei database. Può capitare che un fornitore cambi il numero di fattura e lo faccia coincidere con quello di un altro fornitore. Raro. Forse anche difficile, ma può capitare. Beh, in questo caso effettivamente un contatore ci può stare. In questo caso un contatore. Perché ci può stare? Perché se vi ricordate, io avevo detto che le chiavi primarie possono essere di tre tipi. O un codice che esiste già. Questa strada l'abbiamo battuta, ma abbiamo visto che, ripeto, è raro, insomma, io parlo a livello casalingo, non parlo a livello di un'azienda. A livello casalingo, se uno vede che il fornitore della luce ha un numero di fattura diverso da quello del gas, ha un numero diverso di quello dell'acqua, può essere tentato di dire ci fico il numero della fattura e non se ne parla più. In realtà però può succedere che magari, che ne so, il fornitore della luce e dell'acqua si uniscano, facciamo quello del gas e dell'acqua che è più facile, e che magari unificano il codice della fattura. La luce, tutto la luce. Esatto. Quindi, in teoria, il numero della fattura sarebbe meglio non inserirlo, in questo caso specifico. Diverso sarebbe se il codice di fattura sono io che lo emetto, perché in quel caso è univoco, non se ne parla più. In questo caso il contatore potrebbe essere illuminato come codice di fattura interno. Stiamo parlando sempre della contabilità casalinga. Quindi in un casalinga io non mi vado a scrivere un codice di fattura mio. No, assolutamente. Ok. Quindi ID contatore, nel caso specifico di una contabilità casalinga, ci può stare. Quindi le chiavi primarie le ho identificate. Quarto passaggio. E questo è uno dei passaggi che la gente di solito salta a pie pari. Ma che poi fa vedere tutta la sua cattiveria quando si verifica. Si cercano eventuali ridondanze. Questo è uno dei passaggi che le persone saltano sistematicamente. Uno dice no, così sicuramente ridondanze ne ce ne sono. Siamo così sicuri? Cioè, ad esempio, la data di scadenza di pagamento può essere la stessa cosa. Sì, la data di scadenza di pagamento possono essere uguali, ci sta, però in realtà possono essere uguali tra di loro. Tra di loro, ma non due volte. Quindi nello stesso record molto sicuramente sono uguali. Può capitare? Potrebbe. Potrebbe capitare se ad esempio luce e cardine 1 scadono nello stesso giorno e risparmiano nello stesso giorno. Ci sta. Però diciamo così, in questo caso specifico è una complicazione in più andarsi a fare una terza tabella per questo motivo. Certo. È giusto, eh? Anche perché dovrebbe essere abbastanza scontato. No, attenzione. La complicazione non è nello stesso record tra la data di pagamento e la data di scadenza, sì, che è facile che ci sia questa cosa, ma sta in due record diversi, cioè due bollette che abbiano la medesima data di pagamento e la medesima data di scadenza. Sì, sì, certo. Può capitare, ma è già più difficile in una contabilità casalinga. Se ne accorge il pagamento dopo. O il giorno prima. Però voglio dire, è una complicazione che in una contabilità casalinga si può accettare. Quello che si può accettare un pochino meno, ad esempio, è nel caso del fornitore. Se la partita IVA di un fornitore c'è sia per la fornitura dell'acqua che per la fornitura del gas. Il numero di contratto, bravo. È chiaro, signori? Cioè, io in questo caso specifico qua potrei avere la stessa partita IVA, quella dell'Enel, quindi partita IVA 0123, nome del fornitore Enel, fornitura luce. 0123, Enel, fornitura gas. Eccola qua, la bella ridondanza. E questa invece, al contrario delle date, non è accettabile. Si può mettere il numero di contratto come diciamo che... E allora, l'utilizzatore di Excel che fa? Che problema c'è? Invece di mettere luce e gas, metto luce e gas. E mi tolgo il problema. O l'utilizzatore di Excel o l'italiano medio, perché l'italiano medio, fatta la legge, trova il modo per fregare la legge, no? E ci sta. Beh, è giusto, no? In questo caso come fa? Seguitemi solo il ragionamento, per favore. L'italiano medio, e io sono lì dentro, non è che sto cercando di togliermi, che fa? Bypasso il problema, chi se ne frega, metto a qualcuno luce, magari se sono in un bel ufficio, quindi ho più fornitori, eccetera, eccetera, a qualcuno i gas, e poi metto luce e gas. Voilà, tolto il problema. Per cui se c'è l'Enel che mi fornisce la luce e il gas, metto luce e gas e non se ne parla più. Tutti d'accordo, no? Come no? Sì, come c'è, sì, va bene. Ma dove sta il problema? Che poi quando vado a fare le query non so più le bollette se si riferiscono alla luce o se si riferiscono al gas. Quindi, attenzione signori, perché ripeto, il quarto punto è fondamentale, perché guardate, in una roba del genere come sia importante. Perché se voi accettate questa cosa qua, a parte che non ve la fa fare perché c'è la chiave primaria, per cui il problema non si pone, ma supponiamo anche che ve la facesse fare, e ripeto, non ve la fa fare perché la partita IVA è chiave primaria, se ve la facesse fare non riuscirei più a capire dall'altra parte se si lega a quello della luce o quello del gas. Se io bypasso il problema mettendo luce e gas, non riuscirò più a capire se le bollette sono quelle delle luce o quelle del gas. Quindi in questo caso specifico, invece della partita IVA, molto meglio mettere, magari la partita IVA la posso lasciare, ma non più come chiave primaria. Come chiave primaria gli vado a mettere il codice del contratto. E quella sì che è una bella chiave primaria. E quella sì che è una bella chiave primaria. Codice numero. Chi se ne frega? Contatore? Non tutti hanno il numero di Comunque il codice contratto te lo trovi sulla bolletta stessa, per cui il problema non si pone. Signori, scusatemi, vi siete scritti tutto il ragionamento? Perché, ripeto, su un libro di Access, come fare una chiave primaria, lo trovate. Quello che non trovate su un libro di Access è il ragionamento che ci sta dietro. Quindi fatevi proprio il discorso del partita IVA, nome, tipo fornitura, con la partita IVA, chiave primaria, e scrivetevi, punto 4, ricerco eventuali ridondanze. Scrivetevi che le trovate in questa maniera. Quindi si toglie la partita IVA e si mette il codice contratto. Punto 5. Cerco i tipi di relazioni. Per ogni bolletta ci sono molti fornitori? No. Per ogni fornitore ci sono tante bollette? Ecco la relazione. Se avete diviso bene i campi e avete cercato bene le ridondanze, le relazioni vengono abbastanza da sé. Perché è facile intuibile in questo caso, no? Per ogni fornitore ci possono essere più bollette. Però la condizione fondamentale è che voi la divisione concettuale l'abbiate fatta correttamente e abbiate controllato che non ci siano ridondanze. Non in quel momento, ma anche future. È quella la fregatura dei database. Cercare di, ragionevolmente, nel limite del possibile, prevedere gli inserimenti futuri. Tipo, ad esempio, lui dice il contatore. Capita che io cambio il contatore e cambia tutto. D'accordo? Ok? Quindi, signori, questo è un pochino il giro del fumo. Quindi, ripeto, primo punto, foglio di carta, inserisco io i dati. Secondo punto, tutto questo su foglio di carta, questo ancora io non ho acceso il computer. Secondo punto, vado a dividerli a livello concettuale. Terzo punto, individuo le chiavi primarie. Quarto punto, mi sincero che non ci siano ridondanze. Quinto punto, definisco i tipi di relazioni. Sesto punto, una volta che ho definito le relazioni, definisco i campi ponte. Questo sostanzialmente cosa vuol dire? Che se qua ho ID contratto, qua avrò ID codice contratto. Sì, contratto ID contratto. D'accordo, signori? A questo punto sì che posso accendere il computer. Quindi, ID, codice, contratto. Lasciatemi per semplicità tutto testo, tutto normale. Poi, ragione sociale fornitore. Testo. Cosa abbiamo detto? Tipo fornitura. E questa qua la chiudo, no. eventualmente partita IVA, non c'ho voglia di inserirla. La chiudo e li come la chiamo? Fornitori. Fornitori. Poi, altra tabellina, che chiamerò bollette. Allora, ID bolletta, questa l'avevo messo, sì. ID bolletta, poi importo, poi data di qua, data di là, quindi pagamento, periodo, ok, e poi abbiamo detto il campo ponte, giusto? Quindi ID, codice, contratto. Ora, se di là era un testo lungo 255, anche qua deve essere un testo lungo 255, con le stesse proprietà. E fino qua dovremmo essere tranquillamente in grado di fare queste operazioni, giusto? Perfetto. A questo punto arriva lo step in più. Quindi, ripeto, notate bene come in realtà una volta che io l'ho fatto su carta, farlo su computer è molto veloce. Lo step in più è quello di andare su strumenti di database alla voce relazioni. Vi appare una finestrella dove vi chiede quali tabelle volete mostrare. Selezionate entrambe e schiacciate aggiungi. Mi sono sì. Quindi schiacciando il pulsante relazioni vi appare una finestrella, vi chiede quali tabelle volete mostrare, quindi mostrare dove? Nella finestra delle relazioni. Selezionate le due tabelline e schiacciate il pulsante aggiungi. D'accordo? Vedete che lui vi fa apparire fornitori e bollette con le chiavi primarie che hanno una chiavetta e segnate di grassetto. Nota bene, le volte successive che voi fate questa procedura, vedete che io adesso ho chiuso e ritorno qua, le volte successive quella finestrella lì che vi chiede, magari nel futuro poi aggiungete delle altre tabelle, non ve la fa più apparire la finestrella dove vi chiede quali tabelle volete mostrare. Quindi le volte successive dovete andare a cliccare su questo pulsante con un più giallo. Anche sul 2003? Sì, sì. È solo un po' più piccolo il pulsante, ma è sempre quello. Quindi scrivetevi, se successivamente si aggiungono delle tabelle, se in futuro si aggiungono delle tabelle, quando si va sulle relazioni, per mostrare le tabelle aggiunte, si clicca e disegnatevi un secondo quel pulsante lì. Disegnatevi una tabellina stilizzata con un più. Questo, ripeto, solo nel caso in cui magari successivamente aggiungete un'altra tabella, altrimenti non ha senso. D'accordo, signori? Ora, se voi arrivate a questo punto, con tutto definito, tutto fatto, in realtà creare una relazione fra due tabelle è la cosa più banale che ci possa essere. Perché una volta che voi avete mostrato le tabelle, vi basta prendere la chiave primaria della madre e trascinarla nel campo ponte della figlia. Quindi scrivetelo. A questo punto, sono sempre qua. A questo punto basta prendere... Ovviamente questo non è un corso base, per cui quando dico prendere intendo che ci clicco e trascino. Basta prendere la chiave primaria della madre e trascinarla sopra il campo ponte della figlia. Se noi siamo arrivati qua e abbiamo fatto le cose per benino, sappiamo già chi è la madre, chi è la figlia, c'è già il campo ponte nella figlia, è già stata definita la chiave primaria nella madre, quindi è già tutto fatto. Dobbiamo solo acchiappare ID codice contratto nei fornitori e trascinarlo su ID codice contratto nelle bollette. D'accordo? Quando lascio, mi appare una finestrella. Che vi dice? Il campo madre e il campo figlio. E così voi li verificate un secondo che il campo madre e il campo figlio effettivamente siano quelli corretti. Non devono avere lo stesso nome, eh? Diciamo che è meglio se lo hanno, perché almeno so che sono uguali. Però uno si può chiamare codice contratto e l'altro code contr. L'importante è che però i tipi di dati siano gli stessi. Quindi lì mi fa vedere campo madre e campo figlio. E poi c'è una cosa rassicurante lì che mi dice tipo di relazione, relazione 1 a molti. Badate bene che non è modificabile da lì. Quella è una semplice informativa che il programma mi dà. E perché mi dà quell'informazione? Perché io ho preso una chiave primaria di una tabella e l'ho trascinato su un campo ponte in un'altra. Se io avessi, vediamo se me lo fa fare, mi sa di no, ma se io avessi trascinato una chiave primaria su un'altra chiave primaria, probabilmente si ribella perché i tipi di dati sono diversi. No, non si ribella. Mi dice 1-1, lo vedete? Perché ho trascinato una chiave primaria su un'altra chiave primaria. Ok. Quindi questa qua è una semplice informativa, ma che tutto sommato mi rassicura, perché mi fa capire che sto andando nella direzione giusta. Dopodiché c'è un flag applica integrità referenziale, ma abbiamo visto prima che cosa vuol dire, cioè è quella cosa che mi permette di non avere record orfani, e allora la fleggo, e quando gli vado a fleggare quel box mi fa apparire altre due opzioni, cioè aggiorna in catena ed elimina in catena. Allora, signori, per mancanza di tempo, l'aggiorno e l'elimina in catena lo vedremo la prossima settimana, perché non è così banale come può sembrare. Fateci una pensata sopra a che cosa può comportare l'aggiornamento in catena o l'eliminazione in catena. Fateci una pensata sopra. La prossima settimana poi lo vediamo. Ora, a questo punto basta schiacciare il pulsante crea. E guardate qua, quello che succede è proprio una relazione 1 a molti. D'accordo? Ecco fatta la mia relazioncina. Posso quindi chiudere la mia finestra delle relazioni e iniziare ad andare ad inserire i dati. Vado a inserire il primo, codice del contratto per il primo fornitore, 1, 2, 3, 4, Enel, tipo fornitura, gas, 2, 3, 4, 5, Arcal, tipo fornitura, acqua, 3, 4, 5, 6, Telecom, tipo fornitura, telefono. D'accordo? Arriva la mia prima bolletta, importo 100 euro, data di qua 3/3/2011, data di là non ancora è. Codice del contratto 1234, va benissimo. Codice del contratto, il gas. No, assolutamente. Adesso poi lo vediamo. Poi, importo 100 euro, 4/4 del 2011. Codice del contratto 5555. Vado avanti e mi dice: no, caro bambino, non puoi mettermelo, perché? Perché stai andando a violare l'integrità referenziale. Cioè mi stai mettendo una bolletta che fa riferimento a un codice del contratto che non esiste nella madre. Per cui non va bene. D'accordo? Tanto è vero che se qua io gli metto 3, 4, 5, 6, non si ribella più e mi fa andare avanti. D'accordo, signori? Ora, giustamente, uno mi si chiede: ma io me le devo ricordare a memoria? Assolutamente no. Lo faccio vedere in 2 nanosecondi, perché poi lo dovete provare a casa. Quello che dovete fare è semplicemente una maschera che si basi sulle due tabelle. Non vi sto dicendo nulla assolutamente di più a quello che abbiamo già visto due settimane fa. Semplicemente dovete andare su Crea, autocomposizione maschere, che è quello che abbiamo visto. Ecco, l'unica discriminante è che dovete mettere i dati del fornitore, cosa che l'altra volta non avevamo perché avevamo una sola tabella, i dati del fornitore e i dati delle bollette. Tutto qua. A quel punto, andando avanti, lui si accorge che c'è tabella madre e tabella figlia, per cui vi raccoglie i dati della madre qua e i dati della figlia qua. Andate avanti, gli dite come volete la tabella figlia, ma queste ve le provate a casa perché sono ammenicoli grafici. Patapin, patapan, patapin, patapan, patapin, patapan. Quello che viene fuori è Enel, gas, bolletta 1, bolletta 2. Vedete che il codice contratto lo mette in automatico? Nella tabella successiva c'è l'Arcal e la Telecom con la bolletta 1 e la bolletta 2. Lo vedete? Se io vado nella tabella delle bollette, lui mi ha aggiunto sia, aspetta che chiudo tutto qua perché sennò non me l'aggiorna, se io vado nella tabella delle bollette, vedete, 100, 100, 200 e 50, che sono le stesse bollette che avevo aggiunto con la maschera. Ora signori, questo poi lo rivediamo, cioè, comunque, guarda, davvero, non ho aggiunto niente di più in questi ultimi due secondi che non quello che avevamo fatto, se non il fatto di andare a pescare sia i dati della madre che i dati della figlia, punto. Quindi se voi avete provato, come mi auguro, le maschere in composizione guidate due settimane fa, in questo ultimo passaggio non ho aggiunto assolutamente nulla di nuovo. Quello che invece è molto, che è decisamente fondamentale, è il discorso delle relazioni fra tabelle. A casa vi invito quindi a fare questo piccolo database, è il primo nostro piccolo database. Quindi riguardatevi mentalmente i vari passaggi come ve li ho proposti, rifateli su carta, fateli su Access e poi fatevi, testate l'integrità referenziale, testate, fatevi una pensata sulla giorna in catena e elimina in catena e poi createvi una mascherina con sottomaschera. Se avete dei problemi scrivete pure al gruppo e noi ci vediamo settimana prossima. Signori, provatele queste cose qua, non lasciate passare però 10 giorni, se non le provate domani o dopodomani almeno lunedì metteteci una mano sopra, perché sennò le cose passano di mente. Buon fine settimana.